Seconda stella destra, questo è il cammino. L'amico immaginario. Poi la strada la trovi da te. Di Giovanni Savarese e Giancarlo Ricci. Porta all'isola che non c'è. Dicono gli psicologi che avere un amico immaginario da bambini sia normale, serve a crescere, poi svanisce. Noi però i nostri amici immaginari non li facciamo andare via, anzi cerchiamo di incontrarli tutte le volte che possiamo per rivederli e rivederli e rivederli ancora. Benvenuti all'amico immaginario. Bene gente, preparatevi a una fantastica sorpresa. State per conoscere l'incredibile Uomo Ragno. L'uomo ragno, Spider-Man se volete, è l'amico immaginario di cui ci occupiamo oggi. Supereroe per caso, con superpoteri che gli consentono di arrampicarsi sui muri, una incredibile agilità, una forza sovrumana e il famoso senso di ragno, una specie di sesto senso che avverte il nostro dei pericoli incombenti. Dietro la maschera c'è Peter Parker, giovane un po' imbranato, poco avvezzo a socializzare, tanto secchione da essere quasi uno scienziato in erba, un po' nerd, come si dice negli Stati Uniti, e imbranato con le donne, oltre che vittima di qualche bullo a scuola, ma non brutto né tantomeno stupido. Un personaggio che oggi è vicino ai 50 anni, essendo nato dalla penna del disegnatore americano Stan Lee nel 1962, la cui storia è stata raccontata in milioni, davvero milioni di strisce di fumetti, da una quantità di cartoni animati e in 6 film, 3 notissimi e 3 semi sconosciuti. Un personaggio che si dipana quindi tra fumetti, cartoni animati in varie versioni, film riusciti e film imbarazzanti. Un supereroe con super problemi, fin dall'inizio. L'anno di nascita dell'Uomo Ragno è il 1962, creato da Stan Lee e Steve Ditko, rispettivamente testi e disegni. In Italia arriva nel 1970, ovviamente si tratta di fumetti, dopo toccherà a cinema, TV e videogiochi. Nessun cambiamento radicale nel tempo, sempre lo stesso costume, con qualche apparizione della tenuta nera versione alter ego, molti nemici e tanti dubbi esistenziali. Spider-Man è un supereroe umano, ha grandi poteri ragneschi, velocità, sesto senso, resistenza, ma anche i pensieri di tutti. La zia malata, l'infelicità in amore, lo studio. Facile identificarsi nell'esile adolescente Peter Parker quando indossa il costume di Spider-Man. In un primo momento usa i suoi poteri per guadagnare, poi per combattere il male, in seguito alla morte dello zio Ben, che non ha saputo evitare. Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Questo insegnamento è l'eredità dello zio che lo seguirà sempre anche da adulto, perché in più di 40 anni di fumetti, Peter è cresciuto, si è sposato, ha sofferto. In TV l'esordio è con la serie animata del 67, ne seguiranno altre 6. Al cinema fa la sua prima apparizione alla fine degli anni 70, ma il vero successo sul grande schermo è con gli Spider-Man firmati Sam Raimi nel nuovo millennio, che raccontano la nascita dell'Uomo Ragno e i suoi primi confronti con il male. Goblin, Dottor Octopus, Venom e l'Uomo Sabbia. Spider-Man, tu sei l'Uomo Ragno. Che forte sei tu! Supereroe per caso, dicevamo, non come Superman nato su un altro pianeta e per questo dotato di superpoteri, nemmeno come Batman, le cui abilità sono tutte tecnologiche. Lui, l'Uomo Ragno, è diventato quello che è per un fatto fortuito, la puntura di un ragno un po' particolare. E queste, signori, sono le nostre attrezzature. Ora vi mostreremo come la radioattività possa essere controllata in laboratorio. Un giorno diventerò qualcuno. Altro che topo di biblioteca, diventerò famoso. Accidenti, mi è morso qualcosa! Oh, è solo un ragno. Ma perché mi sento così strano, così diverso? Sarà meglio che vada a prendere un po' d'aria. Ho l'impressione che tutto il mio corpo oggi sia pervaso da una carica fantastica di energia. Potrebbe essere stato il morso di quel ragno. Mi chiedo se in tutto questo non c'entri la radioattività. No. Sto solo fantasticando. I miei riflessi funzionano così rapidamente che riesco appena a controllarli. E questo lampione d'acciaio l'ho spaccato addirittura in due con un solo pugno. Ma che mi sta succedendo? Sto per diventare pazzo! Riesco ad arrampicarmi su questo muro come se stessi camminando. Le mie dita aderiscono perfettamente alla parete e mi sorreggono. Sono una specie di insetto gigantesco. Un enorme ragno che si arrampica sui muri. Il ragno geneticamente modificato, un super ragno che pizzica sul dorso della mano Peter Parker dando vita a tutto. Un ragazzo fino ad allora normale che di lì a poche ore sarà in grado di aderire mani e piedi ai muri e di arrampicarcisi. Avrà sensi sviluppatissimi, una forza e un'agilità non umane. Difficile abituarsi ai superpoteri, come vedremo più avanti, che creano problemi e disequilibri psicologici, ma l'impatto con le nuove capacità può anche essere divertente. Funziona a meraviglia! Basta premere due volte in questo punto e zac! Con il mio nuovo potere sono in grado di colpire come un francotiratore. Devo controllare l'emissione del fluido fin quando non avrò ottenuto l'esatta consistenza. Ma adesso mi serve anche un'altra cosa. Un costume. Se devo interpretare questo ruolo, sarà bene che mi studi la parte e che mi trovi un nuovo nome. Uomo Ragno. Cosa fareste voi se improvvisamente vi ritrovaste nelle condizioni dell'Uomo Ragno con i suoi superpoteri? Beh, Peter Parker, che non ha dall'inizio la vocazione del supereroe, viene solleticato dall'idea di sfruttarli per diventare qualcuno, per arricchirsi, finché la strada verso l'attività di eroe gli viene indicata da un fatto improvviso e tragico. Un ladro, che non aveva fermato pur potendo, fa del male ad una persona a lui molto vicina. Ehi, tu con quella tuta, prendilo! Se arriva l'ascensore, riuscirà a sfuggirci! Perché l'hai lasciato scappare? Bastava che lo fermassi e lo tenessi saldo soltanto per un minuto. È affar vostro, non mio. Ora sto per diventare qualcuno e ve lo dimostrerò. Oh, un'auto della polizia davanti alla nostra casa. Che cosa è accaduto? Stai calmo, ragazzo. Ho cattive notizie. Hanno sparato a tuo zio Ben. Oh no! Lo hanno assassinato. Lo zio Ben morto! È stato un malfattore che tuo zio aveva sorpreso, ma lo acciufferemo. È intrappolato in un vecchio deposito del porto. Questa faccia... No, non può essere. Eppure è lui. È il ladro che ho visto fuggire l'altro giorno. Quello che non ho fermato pur avendo la possibilità di farlo. Se lo avessi acciuffato allora. Ma non l'ho fatto. L'ho lasciato fuggire e ora zio Ben è morto. Sì, lo zio Ben è morto. In un certo senso sono stato io ad ucciderlo, perché non mi sono reso conto che quando si possiede un grande potere si hanno anche grandi responsabilità. Is he strong? Listen, buddy. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there! There goes the Spider-Man. Grandi poteri, grandi responsabilità. Negli audio che avete sentito, tratti dal cartone animato del 1967 denominato Spider-Man Classic, la frase nasce dalle riflessioni di Peter. Invece nel film Spider-Man di Sam Raimi del 2002, un attimo prima di essere aggredito, è proprio lo zio Ben a fare il discorsetto sulle responsabilità a Peter. Grazie del passaggio. No, aspetta un momento, Peter, noi dobbiamo parlare. Possiamo parlare dopo? No, possiamo parlare adesso, se non ti dispiace. Ma di cosa dovremmo parlare adesso? È che non ci parliamo affatto da tanto tempo. Tua zia May e io non sappiamo nemmeno più chi sei. Scansi le solite faccende e fai tutti quegli strani esperimenti nella tua camera. E adesso fai a botte a scuola. Non sono stato io a cominciare, te l'ho già detto. Però sei stato tu a finire. Che cosa dovevo fare? Scappare via? No, nessuno pretende che scappi via, però... Peter, senti, tu stai cambiando, io lo so. Mi successe esattamente la stessa cosa alla tua età. No, non la stessa cosa. Peter... Questi sono gli anni in cui un ragazzo cambia e si trasforma nell'uomo che sarà per il resto della sua vita. Ma devi stare attento a quello che diventi. Quel ragazzo, Flash Thompson, probabilmente si meritava quello che è successo. Ma il fatto che tu sia in grado di batterlo non ti dà il diritto di farlo. Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, welcome fame. A Peter, diventato da poco supereroe, zio Ben parla di problemi adolescenziali. Spider-Man, l'eroe adolescente. Ne parleremo tra poco all'amico immaginario. Spider-Man! Nel mondo di Spider-Man, come sempre, ci sono amici e nemici. La fidanzata nella trasposizione cinematografica, Mary Jane, prima di tutto, amore sofferto con tutta la timidezza e l'indecisione tipica della gioventù. Un amore che nasce a scuola. Ti posso fare una fotografia? Me ne serve una con uno studente. Certo, sì. Grazie. Dove mi vuoi? Va bene qui? Sì, sì, perfetto. Non mi fare brutta, eh? Sarebbe impossibile. Poi c'è la zia May, mamma adottiva, che per questo nipote stravagante passa davvero molti guai, spesso usata dai nemici dell'uomo ragno come arma di ricatto verso il nostro amico immaginario. Quelli che però hanno il peso maggiore nelle avventure di un supereroe sono ovviamente i nemici, personaggi assoluti, in negativo, ma articolati e complessi, nei quali spesso c'è un prima di normalità e un dopo votato alla malvagità, come Goblin e il Dottor Octopus. Nella sua lunga carriera di supereroe, Spider-Man ha incontrato molteplici nemici, ma le sue nemesi storiche sono soprattutto due, quelle raccontate nei recenti film di Sam Raimi. Norman Osborn, in arte Goblin, presente nel primo film della serie, e il Dottor Octopus, protagonista della seconda pellicola di Raimi. Norman Osborn, un tempo solo un ricco e spietato industriale, usò su di sé una formula ideata per creare un supersoldato, ottenendo un potere fisico quasi mostruoso. Fu sufficiente aggiungere uno sgargiante costume da folletto verde, dotarsi di gadget tecnologici tutti distruttivi, tra cui il rinomato mezzo volante, e il gioco fu fatto. Goblin divenne l'acerrimo nemico dell'uomo ragno. Oltre che da Norman Osborn, l'identità di Goblin fu assunta in vari periodi da altri emulatori. Il primo fu il figlio tossicodipendente di Norman, Harry. Toccò poi all'avido psichiatra del ragazzo, Bart Hamilton. Diversa invece la natura del Dottor Octopus. Lo stesso esperimento fallito che fu all'origine degli straordinari poteri dell'uomo ragno trasformò lo scienziato atomico Otto Octavius in un supercriminale dotato di numerose braccia meccaniche. Arrampicamuri come Spider-Man è il nemico che gli rende la vita più difficile. Un bel sogno per tante persone, per tanti ragazzi, quello di ritrovarsi improvvisamente dotati di poteri incredibili. Oggi normali, domani supereroi. Forse una delle tante ragioni di successo del personaggio. L'uomo ragno è un eroe particolare per il momento storico in cui è nato, per le caratteristiche che ha. Prima di tutto un eroe adolescente, l'abbiamo detto, tormentato sia dai problemi normali sia da quelli derivanti dalla condizione di superuomo. Proviamo a capire da cosa deriva questa condizione per il nostro amico immaginario. Lo facciamo con Gianfranco Goria, cartoonist, sceneggiatore, docente di letteratura disegnata, oltre che presidente e fondatore dell'associazione Anonima Fumetti. Insomma, uno che sa veramente tutto del nostro uomo ragno. Cominciamo dalle origini storiche. Se Superman è figlio dell'America della crisi economica del 1929, Spider-Man di che epoca è figlio? È veramente figlio dell'inizio degli anni 60. Cioè del periodo in cui la guerra è un ricordo triste per i più anziani, ma per i ragazzi è il racconto dei padri, ecco, niente più di quello. Qui corrisponderebbe al nostro periodo di boom economico, ecco, e in America era sostanzialmente quello, se vogliamo già anche un pochettino più avanti. Quindi sono ragazzi che stanno sostanzialmente mediamente bene e che vivono tutta una serie di, diremmo, problematiche giovanili che sono simili per certi versi a quelle di oggi, ecco, quindi non con il patema della fame, assolutamente no, nemmeno però con tutti i problemi risolti. C'è già una grossa distanza rispetto, vabbè, Capitan America o comunque gli eroi del periodo bellico che vivevano una situazione terribile come la guerra complessiva e quindi avevano un certo tipo di approccio, o l'antico, diciamo così, Superman che era legato alla crisi del 28, del 29, cioè gli anni in cui veramente si moriva di fame. No, la situazione è completamente diversa. Qui i ragazzi sono con il rock and roll, la musica sta andando avanti, ci si prepara, non lo sanno, ma alla rivoluzione culturale complessiva che verrà portata negli anni dopo dal 68, quindi c'è questo periodo di fermento, di crescita, di vitalità, anche di gioia di vivere, se vogliamo, che però deve bilanciarsi con la quotidianità, col fatto che il ragazzo è imbranato con le ragazze e viceversa per le ragazze, che la scuola rappresenta un problema, eccetera. Quindi siamo su una serie di problemi tutto sommato semplici, quelli dell'adolescente, semplici, quelli dell'adolescenza, è eufemistico, perché in realtà nell'adolescenza è un periodo molto difficile da superare. Questo è l'ambiente, esprime il giovane Peter Parker, che esprime Spider-Man come capacità di superare tutto questo insieme di difficoltà quotidiane, esistenziali proprio della vita quotidiana e scolastica e giovanile, il superamento dell'adolescenza, ma che nello stesso tempo gli porta una serie di altri problemi, perché Spider-Man è un supereroe, sì, ma un supereroe imperfetto. I suoi superpoteri non gli risolvono tutti i problemi, gliene creano una quantità di altri, per cui in realtà di fatto lui deve fronteggiare anche i problemi del supereroismo, oltre a quelli della quotidianità. Is he strong? Listen, buddy. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there! There goes the Spider-Man. L'Uomo Ragno è storia dei fumetti, ma è anche sinonimo di almeno tre film, il quarto in lavorazione, che hanno fatto registrare incassi da record e che hanno dato vita a una lunga serie di trasposizioni cinematografiche di eroi fino a ieri solo disegnati, dagli X-Men a Hulk, passando per Iron Man e i Fantastici 4. In che rapporto stanno lo Spider-Man a fumetti e quello visto sul grande schermo? Ancora Gianfranco Goria. Ovviamente è passato un sacco di tempo da quando il personaggio è partito e oggettivamente era già diventato diverso rispetto a se stesso nel corso degli anni sulla carta, cioè nel fumetto. Quando nasce nel 62, se lo si confronta con quello che è stato dopo, sembra un po' naif. E quindi in realtà già negli anni 70, a maggior ragione negli anni 80 e 90, il personaggio dei fumetti cambia molto e diventa ancor più realistico. Il cinema, per forza, ovviamente il cinema è un altro mezzo per raccontare le storie e ha le proprie regole e le proprie modalità. Di film ne sono stati fatti diversi, non tutti sono all'altezza se lo si prende dal punto di vista degli appassionati, questo è normale, lo sappiamo. Quando noi leggiamo un libro o leggiamo un fumetto, siccome sono mezzi che richiedono un grosso contributo mentale da parte del lettore per completare le parti non dette, che nel libro sono principalmente quelle visive e sonore, nel fumetto sono sicuramente quelle sonore e tutta la parte che non si vede ma viene solo suggerita. Questo fa sì che uno sente le proprie voci, e questo già crea quello sfasamento immediato quando uno va al cinema, sente parlare il personaggio che si è immaginato per anni parlasse in un certo modo e parla in un altro modo. Quello ti manda un po' fuori di testa, ecco, diciamo. E questo tipo di rapporto quindi molto forte e collaborativo del lettore rispetto al fumetto fa sì che la parte cinematografica venga dagli appassionati sempre considerata qualcosa meno, e in un certo senso lo è. Infatti funzionano di più i film che non tengono in considerazione questo aspetto, ma realizzano un'opera che è veramente originale, cioè si ispira al personaggio, al suo mondo, eccetera, ma viene rielaborata per proporre un qualcosa che è un proprio mondo. Spider-Man, Spider-Man. Peter Parker nella saga cinematografica di Spider-Man, vale a dire i tre film usciti tra il 2002 e il 2007, ha il volto di Tobey Maguire, all'anagrafe Tobias Vincent Maguire, attore americano di 35 anni. Una carriera cominciata da bambino, si è fatto notare in pellicole quali Le regole della casa del sidro e Pleasantville, prima di indossare ovviamente la tuta colorata da ragno che gli ha dato la grande, grandissima notorietà. Non sarà il protagonista del quarto film, ma ne parleremo tra poco. Volto di Maguire, quindi, e voce in Italia del doppiatore Marco Vivio, giovane talento nostrano. Voce di Spider-Man, personaggio che anche Marco Vivio ha incontrato da ragazzino. Diciamo, innanzitutto l'ho conosciuto da bambino perché vedevo i cartoni animati, insomma, lo seguivo, è un personaggio amato dai più piccoli. Per cui quando mi è stato proposto di fare il provino per Spider-Man, per me è stata un'emozione unica. E ancor di più quando poi mi hanno comunicato che mi avevano scelto. Vivere per qualche ora, per qualche giorno, nei panni di un supereroe, dell'Uomo Ragno per esempio, un sogno, una fantasia da ragazzi che dobbiamo dire affascinante anche da adulti. Marco Vivio ha in qualche modo potuto vivere un pezzettino di questa fantasia, indossando, in senso lato, i panni di Spider-Man in 3 pellicole consecutive. Come ci si sente? Beh, indubbiamente quando doppio un ruolo a un personaggio per tanto tempo, poi in un certo senso ti identifichi, ti affezioni a questo personaggio, come quando doppi magari dei telefilm molto lunghi, per cui in un certo senso cresci insieme al personaggio che doppi. E nelle 3 pellicole della serie il personaggio interpretato da Tobey Maguire cambia molto. Da studente vessato dai bulli alla scoperta dei poteri, ai dubbi al peso della responsabilità. Poi l'amore per Mary Jane, l'aggressività invece del terzo film. Insomma, tanti momenti ed emozioni diverse. Difficile da doppiare? Ancora Marco Vivio. La difficoltà è perché comunque lui è un attore molto bravo, per cui nel doppiarlo dobbiamo cercare di cogliere tutte le sfumature, dalla parte in cui lui è innamorato di Mary Jane, la sua impossibilità di rivelarsi, di rivelare il suo segreto. Poi nel caso di Spider-Man 3 c'è un momento in cui lui diventa quasi cattivo, per cui le sfumature diventano sempre più numerose, le sfaccettature del suo carattere sono tante e bisogna coglierle tutte. Bentrovati all'amico immaginario. Il nostro amico immaginario di oggi quindi arriva da lontano, dal 1962, ma ha ritrovato una nuova giovinezza grazie al cinema e ai 3 film diretti da Sam Raimi e interpretati da Tobey Maguire nel ruolo dello stupefacente Uomo Ragno. Pellicole che hanno avuto un effetto trascinatore per il genere, come ci racconta Andrea Fornasiero, giornalista e critico del settimanale Film TV, a cui chiediamo anche un giudizio complessivo sull'operazione Spider-Man al cinema. Beh, l'operazione è stata un enorme successo perché ha più o meno riportato i supereroi al cinema, non solo l'Uomo Ragno, ha avuto un trionfo al botteghino e da lì si è originata tutta una diffusione di supereroi sul grande schermo, gli X-Men, il ritorno di Batman, i Fantastici 4 che non sono andati bene, però comunque li hanno fatti, e adesso appunto tutti i 2 film di Hulk, e adesso tutti questi film legati al progetto dei Vendicatori, per cui Capitan America, Thor, e poi gli stessi Vendicatori di Joss Whedon appena annunciati a San Diego. Quindi sì, ha avuto un enorme impatto ed è stato un successo, anche dal punto di vista creativo tutto sommato. Un'operazione di successo non si può negare, ma bisogna anche dire che i 3 film, tutti vittoriosi al botteghino, sono molto diversi l'uno dall'altro per efficacia e rispondenza alle aspettative di un pubblico ormai vastissimo di appassionati. Un giudizio necessariamente articolato. Ancora Andrea Fornasiero. Il primo, vabbè, è stato singolare soprattutto dal punto di vista del ritorno del supereroe sul grande schermo, per l'aspetto spettacolare delle scene dell'Uomo Ragno attaccato alle ragnatele che svolazza tra i palazzi e via dicendo, ed è comunque un film onesto, ben fatto, con una buona ironia, che è abbastanza fedele alle origini del personaggio. Il migliore è sicuramente il secondo, anche perché indovina un cattivo straordinario nel Dottor Octopus interpretato da Alfred Molina. Il terzo risente di un pasticcio di sceneggiatura di cui Raimi per primo, Sam Raimi, il regista dei 3 Spider-Man, non era contento, tanto più che sostanzialmente cosa è successo? Che ci sono 2 cattivi, c'è l'Uomo Sabbia e c'è Venom, che piace molto ai fan del personaggio, soprattutto i lettori degli anni 90, diciamo, però entra nel film come un corpo un po' estraneo e non è sviluppato a dovere, quindi finisce solo per aggiungere confusione e toglie coerenza all'impasto di base, che invece avrebbe voluto appunto solo l'Uomo Sabbia e il figlio di Goblin, interpretato da James Franco. Chiederò a Mary Jane di sposarmi. Un uomo deve pensare a sua moglie prima che a se stesso. Tu saprai farlo, Peter? Sì, credo di sì. Abbiamo nuovi dettagli. Questo è il vero killer di suo zio. Ne abbiamo perso le tracce 2 giorni fa. quest'uomo ha ucciso mio zio ed è ancora libero. A volte tutti hanno bisogno di aiuto, Peter. Perfino Spider-Man. La vendetta è come un veleno che può distruggere. Prima che te ne renda conto, ti trasforma in qualcosa di orrendo. Questo costume, ma da dove spunta il potere? È piacevole perdersi in esso. Oh, Spidey, bello il tuo nuovo costume. Ti ricordi di Ben Parker? Ma a te che te ne importa, scusa? Moltissimo! Ma vuoi mandarmi via? Perché dovrei mandarti via? Io ti amo. Sapevi che sarebbe accaduto? Che cosa ti è successo? Non lo so. Ci siamo fatti cose terribili a vicenda, ma dobbiamo perdonarci l'un l'altro. O tutto quello che siamo stati non avrà più senso. Ti chiedo di aiutarmi. Devo fare in modo che finisca. Questa potrebbe essere la fine di Spider-Man. Quello che avete appena sentito è il trailer del terzo capitolo della serie, l'ultimo visto al cinema. Un terzo film piuttosto discutibile e dalla trama confusionaria. Ci sarà un quarto film? A lungo annunciato, chiacchierato, con i blog su internet pieni di indiscrezioni sulla trama e sui cattivi di turno, e alla fine annullato. Almeno come sequel della saga finora vista al cinema. Un nuovo film però ci sarà, ma sarà tecnicamente un reboot, una ripartenza. La Sony Pictures ha infatti annunciato una pellicola in arrivo nel 2012, diretta non più da Sam Raimi ma da Mark Webb. Scomparirà anche Tobey Maguire, rimpiazzato dal giovane Andrew Garfield, a cui toccherà indossare la suite del nostro eroe. Sarà quindi un nuovo Uomo Ragno, tornato per l'occasione teenager. I dettagli da Andrea Fornasiero, critico del settimanale Film TV. Al posto di Maguire hanno preso questo inglese, Garfield, che è anche bravo, però appunto in America non è molto famoso. Il regista invece sarà Mark Webb, che arriva da una teen comedy anche molto ben fatta, piuttosto originale, 500 giorni insieme in italiano si chiama questo film. E, però appunto, cioè, è uno che non ha nessuna esperienza con blockbuster e con effetti speciali di alta fattura, e quindi hanno cambiato regista, hanno cambiato attore, hanno cambiato tutto, e ripartiranno da un Uomo Ragno più giovane per parlare ai ragazzi, sperando di agganciare un pubblico più adolescente, che dovrebbe ispirarsi, tra l'altro una cosa analoga è accaduta anche nelle serie a fumetti, c'è una versione parallela del Uomo Ragno che si chiama Ultimate Spider-Man, che è partita non tanti anni fa, ormai è poco oltre il centesimo numero, e appunto è un Uomo Ragno teenager ai giorni nostri, quindi diciamo una ripartenza anche a fumetti. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Forse non tutti sanno che, o perlomeno non ricordano, che prima delle versioni di Sam Raimi c'era già stato un tentativo televisivo e cinematografico di portare l'Uomo Ragno e le sue ragnatele sul grande schermo. Si parla di oltre 30 anni fa e di un'operazione che, in chi la ricorda, fa venire almeno da sorridere. Era il 1977 e il regista E.W. Svackhammer diresse la serie TV di Amazing Spider-Man, trasmessa per due stagioni dalla rete televisiva CBS e prodotta dalla Columbia Pictures. La serie, con protagonista Nicholas Hammond, era basata sui fumetti della Marvel, ma dall'operazione si dissociò pubblicamente proprio il papà di Spider-Man, Stan Lee. Dal telefilm furono estratti tre film: L'Uomo Ragno, L'Uomo Ragno colpisce ancora e L'Uomo Ragno sfida il drago. Solo il primo dei tre apparve nei cinema italiani. Una produzione criticatissima dai fan per la scarsissima aderenza al fumetto originale e per l'uso di effetti speciali dozzinali e quasi ridicoli, anche per le potenzialità di allora. Scrive un appassionato dell'Uomo Ragno in un gruppo di discussione su internet: una vera ultra mega porcata, super poveristica versione del celebre fumetto che deve più al Diabolik di Bava che al cinema americano degli anni 70. Tipico film nel quale si ha la sensazione di vedere un filmato dopo lavoro. Della trama, prosegue il fan, è meglio tacere. La regia è statica, il cast è terrificante. Una curiosità che sa di ridicolo: nell'episodio pilota della serie, a interpretare il ruolo di zia May era l'attore Jeff Donnell. Ricordo di quel film di Andrea Fornasiero. Faceva rimpiangere il Batman televisivo di Adam West, perché gli mancava anche l'ironia che almeno salvava, l'ironia kitsch e ipercolorata che salvava quelle operazioni. Sì, era una roba davvero brutta e tra l'altro i capitoli successivi mi pare fossero semplicemente dei TV movie, non penso neanche siano usciti al cinema quelli dopo, sono stati realizzati direttamente per la TV. Spider-Man from the neighborhood Spider-Man, wealth and fame he's ignored, action is his reward to him, life is a great big hand. Una cosa che non possiamo non considerare dell'Uomo Ragno è il suo aspetto, che per un supereroe significa costume, non un elemento secondario, al contrario. Il costume dice molto dell'eroe che lo indossa. Batman, per esempio, ha il look del pipistrello, il suo carattere è oscuro, nascosto, più adatto al buio che alla luce. Non parliamo poi di Capitan America, griffato a stelle e strisce in ogni angolino. Oppure Superman, stivali, mantellina e tuta aderente a far esplodere i muscoli. E l'Uomo Ragno? Com'è nato il suo costume? A quali esigenze rispondeva? Lo chiediamo a Gianfranco Goria, presidente e fondatore dell'associazione Anonima Fumetti. Della grafica, tanto per cominciare, e il Superman dei tempi era in realtà vestito come un pagliaccio, o meglio, era vestito esattamente come si vestivano i forzuti dei circhi, quelli che sollevavano i grossi pesi, ecco voi l'uomo più forte del mondo, che però all'epoca poteva anche starci. E quindi quando Spider-Man viene fuori, anche graficamente si pone il problema. Una delle prime cose che Steve Ditko ha dovuto affrontare, in effetti, per la realizzazione del personaggio di Stan Lee e Kirby, è stato proprio il costume. Non è stato un fatto casuale, era una parte vitale del carattere. Doveva rispecchiare le caratteristiche del personaggio, nello stesso tempo occultarne alcune. Da qui il motivo della copertura del viso. Era un ragazzino, sarebbe stato, come dire, quasi contraddittorio, ecco, presentare un supereroe con la faccia da ragazzino nel momento in cui c'è l'azione, nel momento in cui combatte, lotta, eccetera. E quindi la necessità di ricoprirlo completamente, e non poteva mettere gli stivali per il semplice motivo che lui era un ragno in un certo senso, doveva quindi andare sulle pareti. C'era tutta una serie di questioni relative alla fisica del fumetto, quindi all'interno del mondo, che naturalmente ha le sue regole finte, è logico. All'interno di quel mondo c'è una fisica che, seppur alterata rispetto a quella normale della quotidianità, andava comunque rispettata. Il costume ha seguito queste necessità, quelle psicologiche del personaggio, quelle fisiche del personaggio. If I'd be so inclined to climb up beside you, would you tell me that the time just isn't right? Prima di fermarci per l'ultima pausa e ripartire con la parte conclusiva della trasmissione, un omaggio a quello che è considerato universalmente il papà del nostro amico immaginario. Stiamo ovviamente parlando di Stan Lee, pseudonimo di Stanley Martin Lieber, nato a New York il 28 dicembre del 1922, forse il più famoso autore di fumetti al mondo. Il grande merito di Stan Lee, detto dagli amici The Man, oppure il Sorridente, è quello di aver introdotto per primo nel mondo dei supereroi a fumetti personaggi dalle caratteristiche tematiche complesse, con personalità sfaccettate, trovando in questo settore una strada di grande modernità. Il suo successo permise alla casa madre di tanti supereroi, la Marvel, di diventare, da piccola casa editrice qual era, la grande azienda di oggi. Stan Lee, alla soglia dei 90 anni, ricorda così il successo improvviso della sua creatura, Spider-Man, un aneddoto in cui entra anche Bob Kane, il creatore di Batman e grande amico di Lee. Ero molto amico di Bob Kane, il creatore del personaggio di Batman, che purtroppo non è più tra noi. Nei giorni successivi all'uscita del primo film di Batman nel 1989 mi diceva: «Hai visto Stan? I vostri personaggi della Marvel sono ok, ma hai visto quanto ha incassato Batman al box office lo scorso weekend?» E sono così frustrato adesso che Bob non sia qui per dirgli: che mi dici di Spider-Man? Ma sono convinto che lui, in qualche modo, lo sa. Arrampicarsi a mani nude lungo le pareti lisce di un palazzo, appollaiarsi sulla cima di un'antenna a decine e decine di metri d'altezza, oppure essere capaci di procedere in verticale e non solo in orizzontale in un ambiente urbano, grattacieli come strade. È uno dei superpoteri di Spider-Man, quello che affascina forse di più, quello che si vorrebbe tanto avere. E qualcuno nel mondo reale si ispira all'uomo ragno e prova a riprodurne le gesta. Sono i praticanti dello street bouldering, disciplina che ha come teatro le città. Fenomeno mondiale, ma in Italia ha trovato terreno fertile tantissimi appassionati. Capitale italiana di questa disciplina è Torino. Diego Laporta è il leader degli street boulders piemontesi. Il parallelo con l'uomo ragno va da sé. Ma sì, molto, per un semplice motivo, che a volte si scala anche con la corda. Non è street boulder, bensì si chiama bouldering, che è a palazzo. E spesso si fa, non è tanto legale soprattutto, però si fa perché ci sono dei palazzi che sono così belli che uno riesce a ottenere dei permessi oppure a scalarli anche in modo non legale. Ci sono tante storie, uno dei precursori è il più famoso al mondo, si chiama Alain Robert, che ha anche scritto un libro, si chiama Spider-Man, perché lui scala dei palazzi alti anche 200 metri, senza corda, quindi ci sarebbero dei grossi problemi in caso di cadute. Lui è veramente un uomo ragno, perché oltre ad essere un arrampicatore molto forte, ha anche una forza di volontà proprio per tenere testa al vuoto, alla fatica, che non è, che è una cosa quasi da supereroe, infatti. Ma se il parallelo esiste, gli street boulders sono fan del nostro amico immaginario? Beh, noi siamo, diciamo, più che fan, cerchiamo di ispirarci a lui, perché purtroppo l'uomo ragno non l'abbiamo ancora incontrato. Cerchiamo di riprodurre le sue gesta verticali e soprattutto tramite, noi abbiamo anche un sito che si chiama streetbouldercontest.com, dove organizziamo proprio questi contest di arrampicata metropolitana e cerchiamo di contagiare tutti di questa, in modo tale che non siano aracnofobici bensì vengano a scalare con noi. Un sogno da emulare, reinterpretare forse, come vorrebbero fare in molti. Fantasie da bambini di certo, ma di quelle da tradurre in realtà attraverso la pratica sportiva, almeno per alcuni. Sentiamo Diego Laporta. Siamo consci a tal punto che adesso, grazie alla WISP, abbiamo attivato dei laboratori estivi in modo tale che i ragazzini possano andare nei parchi, quelli un po' più frequentati dai nonni o comunque dai bambini, e lì facciamo fare gratuitamente prove di arrampicata metropolitana in sicurezza e dando anche proprio delle nozioni anche un po' storiche di quello che può essere l'arrampicata o proprio a livello fisico di come affrontare alcuni passaggi in completa sicurezza. Infatti riscuote molto molto successo e abbiamo tanti bambini che vengono proprio tutti i mercoledì e tutti i venerdì al parco del Valentino a Torino, poi il parco della Pellerina, dove frequentano questi laboratori. Noi li chiamiamo laboratori di street boulder, comunque sono, è la possibilità che noi diamo a tutta la gente di scalare gratuitamente la città. Spider-Man svolazza di palazzo in palazzo a New York, regno dei grattacieli e dello skyline. Ricorderete che il trailer del primo film di Sam Raimi, uscito nel 2002, fu censurato perché una scena vedeva la ragnatela del nostro tesa tra le Twin Towers. Parlando di grattacieli e di edifici particolari, quale sognerebbe di scalare il nostro Spider-Man italiano, Diego Laporta? Bah, sicuramente da torinese la molettoneliana, però senza corde. devo essere sincero, è una cosa che siccome uno deve sparare grosso, sognando almeno poi lo faccio con i sogni. E all'estero c'è il Palazzo Singapore, che è molto molto molto bello e molto molto alto, è completamente in vetro, è uno spezzone di, non vorrei dire una sciocchezza, forse addirittura 400 metri. Ci va il livello innanzitutto, poi bisogna dedicarsi, allenarsi prevalentemente solo per quelle cose lì. Chiudendo gli occhi e immaginando quali superpoteri vorremmo avere, la scelta sarebbe vasta. Volare come Superman? Prendere fuoco a piacimento come la torcia umana dei Fantastici 4? Oppure possedere la forza sovrumana di Hulk, magari senza la tonalità di verde della sua pelle? La domanda l'abbiamo girata ad alcune persone incontrate per strada, soprattutto bambini che spesso su queste cose hanno le idee molto chiare. Uomo ragno, perché con le ragnatele può andare sopra i palazzi. Spider-Man, perché ci sono dei film che sono interessanti. Spider-Man perché secondo me è il più serio. Rispetto a tutti gli altri che sono un po' più fantasiosi, Spider-Man non ha direttamente i propri poteri, ma praticamente un po' se li crea lui, diciamo. Batman, come si arrampica. Se tu avessi un potere, cosa vorresti avere? Volare primo, poi ci sono anche alcuni tipo saper fare altre cose, come una super forza. Volare, poi oltre alla super forza magari anche la super bellezza per attirare qualche ragazza. Poi, vabbè, sempre meglio averne qualcuno, non si sa mai. Potere teletrasporto, supereroe, l'uomo ragno. Vorrei il teletrasporto, ogni tanto anche con incorporata lavata di denti e pigiama diretti a letto. Se il gioco è quello della fantasia, facile immaginare solo i vantaggi dei superpoteri, ma rifletterci bene il mestiere di un supereroe potrebbe non essere proprio facile da esercitare. Una riflessione qualificata dall'uomo ragno cinematografico meno credibile della storia, Nicholas Hammond, quello del film del 1977. Io credo che l'uomo ragno faccia un sacco di bene, ma se la gente sapesse chi è, non sarebbe certo la stessa cosa. Nessuno gli ha detto di salvare il mondo. Francamente non credo che lui aspiri al titolo di supereroe. Allora dovrebbe prima di tutto rinunciare alla calzamaglia. Ma lui ha una sua coscienza. A che cosa serve avere dei poteri così, così speciali se non si usano per aiutare la gente? Comunque, sarà una vita difficile la sua. E solitaria. Come fa a parlare con la gente? E così come stiamo facendo noi? Voglio dire, che razza di vita può mai essere la sua? Pensaci soltanto un momento. Lui deve mentire. Con tutti quanti, sul lavoro, con gli amici e con le ragazze anche. Come può mai sperare di trovare moglie un giorno? Di avere una vita come gli altri? La gente pensa che sia meraviglioso avere i poteri che ha l'uomo ragno. Io credo che sia più una disgrazia che una fortuna. L'amore collettivo e la popolarità di un personaggio abbiamo imparato a misurarli attraverso il web e anche nel caso dell'uomo ragno gli esiti della ricerca su Google sono impressionanti. Il costume classico, ma anche quello dark dell'ultimo film. Fra i 330.000 risultati della ricerca alla voce uomo ragno su Google, i primi ad apparire in pagina non sono siti, ma foto. Le immagini in rete sono oltre 123.000, dal fumetto al film, passando per costumi di carnevale e torte di compleanno. Per chi vuole sapere proprio tutto sul nostro eroe in italiano, consigliamo uomoragno.orbie.it, ma anche Spider-Man Italia e ragnoman.com, con centinaia di copertine delle edizioni italiane del fumetto, da non tralasciare il sito ufficiale della Marvel e quello della Panini. La ricerca con il nome Spider-Man in inglese è molto più ricca, 25 milioni e 300 mila risultati, a partire dai siti ufficiali dei film, per passare allo Spider-Man francese, lo scalatore di palazzi Alain Robert. Su YouTube a farla da padrone, nella ricerca Uomo Ragno, 1730 risultati sono cartoni animati e canzoni, a partire da quella degli 883, di cui non mancano le parodie. Spacciare un scaldabagno, quella buco e non si sa, forza amico rimasuoro, casi bene alla vacca. 184.000 i risultati se, sempre su YouTube, si cerca Spider-Man, spezzoni di film e cartoni animati, ma anche qui vince la goliardia. Da non perdere Jack Black nell'aderente tuta del ragno. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. Is he strong? Listen, bud. He's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there! There goes the Spider-Man. L'amore per questo personaggio porta milioni di persone al cinema, in edicola, davanti alla TV per ogni appuntamento con questo amico immaginario. E forse un pizzico di amore c'è anche nella citazione dell'Uomo Ragno in un film che con il supereroe non c'entra nulla. Il film è Fuochi d'Artificio. Il regista e autore in questione è Leonardo Pieraccioni. Lei, dottore, se lo ricorda un certo Germano Reali? Fu un piccolo caso nel 91, andò anche sui giornali. Dissero che era stato un miracolato. Una notte, mentre usciva da una festa in maschera, sa, una di quelle notti d'inverno, piene di lampi e tuoni. Oh ragazzi, se domani è questo tempo, niente partitella, eh? Vabbè, dai, si farà un'altra volta. Che seratuccia, buonanotte. Oh, Germano, andò un bello, va un ombrello. Sì, mi fa una sega la pioggia all'Uomo Ragno. Pss, pss. Fulminato, dottore, fulminato. La saetta l'aveva attraversato completamente. E meno male che c'aveva gli scarponcelli di gomma dell'Uomo Ragno che gli scaricarono a terra l'elettricità. Perché se si fosse vestito come voleva lui da D'Artagnan, oh, con gli stivaloni di cuoio e D'Artagnan, e ci rimaneva secco. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size. Sul profilo Facebook della trasmissione aspettiamo i vostri commenti e suggerimenti per capire se i nostri amici immaginari sono anche i vostri. Fin quando vivrò, l'Uomo Ragno non verrà mai meno al suo dovere. Ladri, assassini, in guardia! È nato l'Uomo Ragno! Così nacque una leggenda ed un nuovo nome venne aggiunto a quelli che già avevano reso il mondo della fantasia il più eccitante di tutti i regni. Un saluto da Giovanni Savarese e al prossimo incontro con l'amico immaginario.